La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Palude, quando era palude, ti alzava con una mano sola se non ti stavi zitto. Era un armadio di 1,90 m. Moro, riccio, occhi neri, naso imperiale, sorriso largo, vita stretta. Questo è l'inizio di Palude, il romanzo di Antonio Pennacchi che è appena uscito con l'editore Dalai. Quando lui è entrato erano ancora i primi anni della fabbrica. I genovesi ci trattavano come baluba e le botte si sprecavano. Madderi ha tirato una chiave a stella addosso a Carlo Papa, che non avrà avuto nemmeno 14 anni e mezzo. Palude lo ha preso per il petto, a Madderi, e lo ha spintonato per mezzo capannone. Faceva solo come un toro. Se ci riprovi, ti strappo il cuore. Ecco, saccio was Palude. Latina è quella cosa che vuol dire prepotenza. Ecco qua tutta la lenza che c'ha voglia de menà. Ecco, io non credo nella funzione salvifica della lettura in sé. Per leggere bisogna che ci sia una ragione molto buona. Leggere un cattivo libro è come stare chiusi in una stanza con un cretino che non sta mai zitto. E ci sono libri che sono un dono per vivere. E così è Palude. Questo libro per me ha un valore magico. Il libro di questo autore che è caduto in testa alla letteratura italiana, ma chi se l'aspettava? E lo strega, certe volte, si sapeva che lo vinceva prima ancora che il libro fosse stato scritto. Poi è arrivato Pennacchi. Se l'è preso al volo come l'uomo ragno. Per diritto di capolavoro. Lui che era stato 30 anni operaio, con quella sciarpina rossa, adesso che è rosso, si è sbiancato dappertutto. Io allora lessi Canale Mussolini come prima cosa. Ci sono rimasta tramortita. Meglio di tutti lo ha detto Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha definito il Magnificat della grande letteratura. Palude è una cura, è una passata a Međugorje, è una prima volta. Palude è la festa impossibile alla quale siamo invitati tutti. Qui Pennacchi diventa uno spacciatore di felicità. Questo elisir non ti farà immortale, però è come se. Queste pagine richiamano tenerezze dimenticate e mettono come uno schermo ilare fra te e le cose. Puoi pure piangere, ma te ne freghi, perché intanto hai riso, quel riso che una volta riso a fine ogni miseria. Oh, poi se vi capita questo libro, pigliatelo al volo, perché Pennacchi mica è sempre così. Io, dopo ho letto L'autobus di Stalin, che viene voglia di spararsi, è un'analisi così spietata. È un dio capriccioso questo scrittore. Ora ci salva, ora ci sommerge. Però stavolta intanto ci ha graziato. Con la solita modestia, Pennacchi si mette al posto di Dio e ripara il torto di quell'altro, la morte. Palude è nello stesso tempo un libro sulla morte e una negazione della morte. E l'aldilà è una Latina dell'infanzia. È tutta la nostra malinconia. E qui si sente l'eco di uno scrittore che Pennacchi non ama. Le strade, le case, i viali sono fuggitivi. Ahimè, come gli anni. In questo libro Latinenze dei morti ci sono due personaggi. Palude, questo gigante che in fabbrica diventa il leader della protesta perché non solo il più coraggioso ma il più deciso. Palude ha una bella moglie, Bice. Le vuole un gran bene e non ha mai guardato un'altra in vita sua. Un giorno a Palude gli viene l'infarto, il suo cuore è da buttare. E poi l'altro personaggio, Benedetto, è tutto il contrario. Benedetto è l'antieroe, è un giovanottino archeologo nel pieno di questo amore infelice per la collega Lauretta, per un bacio che non ha avuto il coraggio di darle al momento buono. Benedetto è un mesto secchione che sa a memoria mezza letteratura italiana e come archeologo non sbaglia mai l'attribuzione di un reperto. Ma Lauretta l'ha perduta, perché è indeciso. Indeciso quanto Palude è deciso. E una sera sull'Appia, nel pieno della sua pena d'amore, va a sbattere con la macchina e muore. Prendono il cuore di Benedetto e lo trapiantano su Palude. L'operazione va benissimo. Palude torna forte come un cammello, però è diventato indeciso su tutto. E incontra Lauretta, la ragazza amata da Benedetto, che viene lì a Latina a fare degli scavi. Lui l'aiuta e, come Benedetto, non sbaglia mai un reperto. Il cuore dell'altro lo porta verso di lei. Si innamorano. E così il demiurgo rimedia all'amore incompiuto del ragazzo, a quel bacio non dato. Finora Palude è stato fedelissimo a Bice, ma adesso Palude sono due. È indeciso anche fra le due donne. Che bel tipo sei, che romanzante meraviglia. Ah, che bel tipo sei, amata mia, amata mia. Intanto c'è un grande movimento nell'altra dimensione, ovvero tra i morti. Sull'Appia si sente una brizzolina mentre l'aria è ferma e il rumore di un Guzzi 500 Falcone Sport invisibile. È il Duce, che non ha pace, condannato a rimanere a Latina. Una cosa che mi ha stupito in questo libro, che Mussolini mi è stato di una simpatia irresistibile. Ma come, Mussolini simpatico, eh sì. Qui, purificato dalla sua realtà storica, è un grosso bambino immateriale con l'elmetto in testa e è una figura goffa, te lo sposeresti. Perché al contrappasso di Dio si è aggiunto quello dell'autore, che lo ha condannato a far ridere dall'aldilà. Intanto il Duce ha incontrato il fantasma del conte Orsolini Cencelli, il vero realizzatore della bonifica, e diventano una coppia come Stallio e Ollio, con delle finezze da Charlot. Dice che il Duce si è pentito fino in fondo, si batte il petto e piange tutti i giorni sugli ebrei, sulle guerre, sul gas agli abissini. Ma adesso si è pentito pure della bonifica a Littoria e tutte le volte che incontra Cencelli indica Latina con una mano e poi gli dice: che cazzo abbiamo fatto? Basta, come l'ho fatta la distruggo. La guardiana del faro. Vi stavo raccontando Palude di Antonio Pennacchi. Il racconto si svolge su due piani. Da una parte c'è il fantasma di Mussolini con col conte Cencelli che si stanno vendicando di Latina e vogliono farla sommergere dalle acque. Dall'altra c'è Palude, al quale è stato trapiantato il cuore di uno studente innamorato. Per ragioni che non vi dico, di nuovo il suo cuore si schianta e Palude entra in coma. E mentre Palude è in coma, intanto l'anima entra nel mondo dei morti. Tutti dicono che quando stanno in coma vedono i tunnel di luce. Palude no. Lui stava dentro la corriera, quella dei preti, quando ci portavano in colonia a Rio Martino, al mare, e cantavamo «Correte, scappate, arrivano i spaccateste della Latina». Il tema è sempre quello. E appena arriva, ancora un po' stordito dal passaggio, crede di riconoscere Lauretta, salta addosso a una ragazza e solo dopo si accorge che era Maria Goretti. Che gaffa. Fra malinconia e vaudeville, l'autore libera Maria Goretti da questa sua nicchia di gigli, scherza coi santi fino a farli giocare una partita di pallone. Ed ecco che nel mondo dei vivi il corpo di Palude, né vivo né morto, si mette a fare i miracoli per volere delle ombre. Le donne che non riescono ad avere figli sentono un venticello e tac, incinte. Palude in sogno dà i numeri del lotto agli amici. E in questo scherzo c'è tutto il carattere di Palude, quella generosità da albero. Mettere incinte le donne e alleviare gli uomini. Tutti, meno il capoturno, al quale gli dà tutti sbagliati, perché una volta gli ha fatto rapporto. E queste cose non si perdonano nemmeno dopo morti. Il Duce e Cencelli, indignati dalla scellerata progenie di Latina, rinnegano la bonifica, che torni la Palude, che l'acqua ricopra tutto. E cercano di provocare un diluvio artigianale con i loro poveri mezzi, perché sono fantasmi che faticano come i vivi, che sudano, che bestemmiano, che non riescono a realizzare i loro fini. Vorrei leggere un brano di quando il Duce e Cencelli organizzano la loro alluvione. Hanno stabilito una testa di ponte alla Settima Arenella, che è una secca a due paia di chilometri dalla costa. Ci radunano col camion le trebbie, i trattori, il sommergibile tedesco affondato, i carri armati interrati, il cacciatorpediniere americano. Poi aspettano che il mare si gonfi. quando il momento partono e mettono in moto in un sol colpo tutto quell'armamentario, tutti i motori, le cinghie, i pistoni, e alimentano il moto ondoso. A volte lo secondano cavalcandolo col camion e i trattori e deviano le correnti per indirizzare i cavalloni. Poi, quando la direzione è presa, scendono in immersione con le trebbie e tutto il resto. E gonfiano, e pompano, ed elevano il mare. Vai, vai, si dicono tra loro, e dicono soprattutto al mare, che pompa e va. Aumenta l'andatura, l'acqua spicca il volo. Non fa neanche la schiuma per la fretta. Prima sembrava stesse passeggiando, e adesso va di corsa verso costa. Loro spingono e pompano, sudano. Man mano si gasano, felici. Vai, vai, si gridano ridendo, ed emergono a cavallo dell'onda. E quando la furia è montata, ora il mare fa tutto da solo. Li porta e urlano come invasati, urlano al mare, vai, vai! E come urlando, assaltano la duna. Sentite un venticello, attenti ai venticelli. Specie se state facendo l'amore e vi accorgete di uno spiffero, sono i morti. Perché quando poi tornerà vivo Palude, quando sente aleggiare intorno a sé quel venticello e capisce che Nino, il suo amico morto, è nei pressi, svelto si copre le chiappe. Perché fanno quello che vogliono i morti. Ecco, dopo aver tanto evocato questo scrittore, la sua opera, le sue gesta, ecco che si materializza al faro la voce di Antonio Pennacchi. Sì. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Senti, c'è in libreria questo tuo Palude. A me ha fatto questo effetto, mi ha consolata della morte. Per un po', non per sempre. I miei libri non sono mai i miei, ma sono di tutti quelli che li hanno fatti insieme a me, perché io raccolgo le storie che vedo intorno, insomma. Dei miei amici, dei miei parenti, e poi man mano che scrivo faccio sempre leggere. Questo poi è proprio nato in fabbrica, mentre io lavoravo, avevo da poco finito l'università, lavoravo in fabbrica, fino di notte, e man mano che scrivevo un po' di pagine, poi la sera quando andavo a lavorare le leggevo ai miei compagni, e loro tutti intorno alla macchina, chi diceva la sua, e tanti pezzi, tante cose, tanti spunti erano loro. Tanto è vero che questo libro, che avrebbe dovuto finire prima nella mia testa, doveva avere un'altra, il finale doveva essere un altro, doveva finire prima, solo che quando sono arrivato alla fine ho letto il pezzo, c'era lì Palude insieme a tutti quanti gli altri, allora diceva bello, mi piace, mo che mi fai fare, compa? Ho detto, ma non lo so, sono indeciso se fatte morire o fatte diventa frocio. E lui, fammi morire, diceva, e tutti gli altri intorno, fallo diventa frocio, e allora mi è toccato ripartire e ricominciare a inventarmi un altro finale, andare avanti un altro po', perché allora la storia gli era piaciuta e bisognava andare avanti. Però dietro ovviamente non ci stanno solo i giochi, ci stanno anche tutto questo rapporto alla morte, ci stanno i compagni che non ci sono più. Io non lo so, Barbara, come funzioni di là, lo sapremo solo quando ci andremo, ma io ho la sensazione che tutta la gente che se n'è già andata di là, i miei compagni, i miei amici, i miei parenti, con piedi stanno ancora di qua, perché ogni tanto mi vengono a trovare, o di notte, o tu pensa, mia madre ancora c'è lì, dico. Si inventa poco in letteratura, Barbara, raccontiamo sempre delle stesse eterne cose, no? L'amore, il dolore, il tradimento, la vita, la morte, la gioia, gli amici, no? Le vittorie, le sconfitte soprattutto, no? Questa è l'eterna storia della letteratura. Anche Omero raccontava le sue storie in giro per le stalle, per le piazze, e tutti gli dicevano, questo io, chi aggiungeva le altre cose, i fatti loro, e lui man mano le costruiva, raccontava le storie che pure a lui qualcuno aveva raccontato, poi le rielaborava, e così è la letteratura, la narrazione. Senti, tu sei riuscito a rendere simpaticissimo il personaggio di Mussolini, lo hai appunto disincarnato dalla sua realtà storica ed è questo fantasma. Beh, è uno spirito, un fantasma. Che arriva a tutto spiano su questa motocicletta. Moto Guzzi 500 Falcone Sport, che faceva tom tom tom, chi se lo ricorda, no? Quando stava in folle. Ma sai, lui è morto, no? Da vivo, insomma, sente colpe ne ha commesse tante, però da morto si presuppone, insomma, il suo spirito sarà come lo spirito di tutti gli altri, che cerca pace, quindi redenzione ed espiazione anche delle cose sbagliate che ha fatto. Quando il Duce appunto decide invece che i suoi indegni discendenti devono essere sommersi di nuovo dalle acque, quello è anche Pennacchi che maledice Latina? Questo libro nasce da una forte indignazione. La città è un corpo vivo che pulsa, non sono i palazzi e le strade, ma è fatta dalla gente che passa nei palazzi e nelle strade, e questi ti modificano i palazzi e le strade, modificandoti la tua vita, modificando la tua anima, modificando i tuoi ricordi. Questi abbattono e ricostruiscono in maniera indiscriminata, pensando sia solo un fatto tecnico, e invece no, dentro i palazzi, dentro i muri, dentro un ponte c'è l'anima, perché c'è l'anima di tutti quelli che l'hanno fatto e l'anima di tutti quelli che lo vivono e lo guardano. Quando tu mi modifichi un pontile, un ponte, un palazzo, tu modifichi anche la mia anima, perché il mio modo di guardarlo, i miei ricordi che ci si erano fissati in quegli oggetti. E bisogna dire che le peggiori colpe fatte in questo territorio non le ha fatte il fascismo allora e neanche la Democrazia Cristiana dopo, ma le hanno fatte i post-fascisti che sono venuti all'amministrazione oggi, che stanno distruggendo la città, stanno distruggendo il patrimonio della bonifica. Questi hanno abbattuto tutti gli eucalipti, e quindi i peggiori nemici della città costruita dal fascismo sono i post-fascisti, sono quelli di adesso. Secondo me il primo che sta incazzato come una bestia è appunto lo spirito del Duce, ma poi queste non sono cose che mi invento io, sono le leggende che si raccontano in giro per la città. È da quando ero ragazzino che sento dire, ogni tanto si sente passare sta moto, fa tom tom tom tom tom, si sente passare ma non si vede, perché il fantasma del Duce che gira per l'Agropontino e imprega lui contro i suoi eredi, perché pare, questo lo raccontava zia Antinesca, era una specie di astrologa, in quella che aggiusta le ossa ma che legge anche il futuro, che parla con le ombre, e lei sostiene che nell'aldilà, quando lui si è presentato dopo morto in paradiso, gli hanno detto, ma che vieni qua, tu devi andare all'inferno, perché hai fatto solo cose sbagliate, le leggi razziali, le guerre perse, la dittatura, solo roba sbagliata, quindi devi andare all'inferno. Lui gli disse, però ho fatto la dina, la bonifica. E lui dice, c'hai ragione, a quello non ci avevano pensato. E allora gli ho detto, vabbè, va, non ci vai direttamente all'inferno, ti abboniamo un po', stai in purgatorio, eh? Purgatorio tuo è stare qui ad espiare. Man mano che ti comporti bene e ti purifichi, ti vengono tolti anni di purgatorio, poi ti andrai a ricongiungere alla luce. Ma stai attento, perché alle colpe tue si possono aggiungere le colpe prodotte dagli eredi tuoi. Anche lui dice, ma io sapevo le colpe dei padri che ricadevano sui figli. Mo sono le colpe dei figli a ricadere sui padri. Allora il principale dice, gli avrebbe risposto, guarda, mi dispiace, questa è colpa di Mosè, ma io gliel'avevo spiegato chiaro che questa realtà a me mi era venuta dialettica. Se un ragazzino è maleducato, se un giovane non si alza quando sulla metro vede un vecchietto anziano col bastone, il giovane rimane seduto e lui lo fa restare in piedi, cosa che mi capita purtroppo troppo spesso sulla metro, la colpa è del padre del giovane che non gli ha insegnato l'educazione. E quindi è giusto che le colpe del figlio ricadano pure sul padre. Tu però più che un vecchietto sembri un orco, devo dire, non è che viene tanto da darti il posto. E senti, un'ultima cosa, in Palude parli delle feste che fate a Latina per il compagno morto, le feste al ristorante, e sì. Si sente un venticello, e ci sono i bicchieri che si svuotano stranamente. Sì. Soprattutto tu faccia caso, ma questo capiterà anche da voi ricchi, anche da voi in città, no? Se qualche volta provate ad andare a un bar a comprare un po' di panini, pigliate magari fuori alla bottega due o tre etti di mortadella, tu vedrai che il pane resta tutto là. La mortadella finisce subito, e uno dice, oh madonna, che c'è tanti spiriti qua, che se mangiamo la mortadella. Comunque il nostro modo di salutare i morti resta quello di sempre, ma anche qui non è che ci inventiamo niente, si faceva così ancora ai tempi degli antichi, gli etruschi. Il banchetto, se certo. Banchetta, si mangia assieme, con lo spirito del morto. Senti, io mi sognai una volta, un paio d'anni era morto mio padre, e mio padre non un sogno, e mi diceva, madonna, che buona la marsala, c'è una voglia di marsala all'uovo. E io che dovevo fare... Barbara, sono andata alla bottega, ho comprato la mozzarella all'uovo, l'ho portata al cimitero. E lì ho fatto un bicchiere io, un bicchiere per lui, lo buttavo per terra e poi lo lasciavo là sotto. Quali sono le cose che veramente ti rallegrano? Guarda, le cose che mi rallegrano di più è quando proprio vedo o sogno mio padre. Mio padre mi dà una grande forza. Poi la cosa che mi rallegra di più sono i lavori ben fatti, perché è quello che mi diceva lui. Insomma. Quando fai un buon lavoro, quando hai finito il tuo dovere. Ho detto che credo che sia per tutti, credo che non sia... Vedi, non c'è felicità da soli. La felicità è condivisione. Perché era più bello lavorare in fabbrica che lavorare... Perché fabbrica sta insieme agli altri. La felicità è condivisione. Come si fa a essere felici da soli? bisogna fare il proprio dovere insieme agli altri. Non puoi trovare te stesso dentro il tuo ombelico, dentro di te. No, questo è l'antiromanzo del Novecento che non mi piace per niente. Tu l'unico modo che hai di trovare te stesso è cercarti negli altri, dentro gli altri. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Qui naturalmente, come tutti dicono, siamo contrari alle raccomandazioni. Però qualche volta, se ne capita una, la becchiamo. E attraverso Gianluca Nicoletti, che ha uno zio arcivescovo, abbiamo avuto una raccomandazione vaticana molto importante, per cui adesso possiamo intervistare in esclusiva mondiale l'unico che sa tutto di lui, l'angelo custode di Antonio Pennacchi. Buongiorno e grazie per essere... No, famola corta, che se lo lascio più di 10 minuti, quello chissà che mi combina. L'ha pure scritto, il mestiere mio è quello di rompere i coglioni e mi riesce bene. Ah, dunque lei è l'angelo custode di Pennacchi? Mica l'ho scelto io, ce li danno. Ma lo dice con un senso di rassegnazione, ma non è contento di custodire un così grande personaggio? Non esiste grand'uomo per il suo angelo custode. No, scusi, veramente si dice nessuno è un grand'uomo per il suo cameriere. Magari, cameriere, quelli c'hanno il giorno libero e li pagano pure. Io sto sempre in servizio, a gratis, da 61 anni che combatto tutti i giorni con sto sbruffone che sta in guerra col mondo intero. Mai una volta che mi avesse dato retta. Ah, per esempio? Da ragazzo, quando si era preso una cotta per una del nord, una certa Francesca che lo attirava per dire di no, cioè una che la faceva annusama poi, e lui avanti e indietro, Latina, Milano, in autostop, e io che gli dicevo, ma che sei scemo? Quella non te la darà mai, forse manco ce l'ha, ma lui si è fatto 30.000 chilometri a fondo perduto. Guardi, lei non ha letto Il fascio comunista, perché altrimenti avrebbe capito che per lui l'avventura vera era l'autostop. Per lui l'autostrada era come il mare per Melville. E Francesca era Dulcinea, era la scusa per l'impresa. È arrivata la maestra, quella che ha capito tutto. Ma se ne vuol sapere più di me, io sto zitto allora. Ma via, non si arrabbi. No, mi dica le altre volte che non l'ascolta. Quando guida, le scazzottate, le guerre, i rischi che non può più correre, li sfoga tutti al volante. Passa la linea del sorpasso e io gli strillo, oh, piano, stiamo sull'Appia, il posto della sfiga dove i morti ti acchiappano meglio e c'hai pure tua moglie accanto. E la moglie che gli dice? E che gli deve dire? Con lui ne ha viste tante, che rischia la pelle per strada gli pare un riposo. Una volta, per un dammeretta, si è fatto venire l'infarto e quasi ci rimette le penne. Dove andò a Parma per una presentazione. Stavano straccio, gli ho detto mettete a letto, ma lui è partito. L'infarto se l'è portato dietro per 500 chilometri e io gli dicevo torna a casa e lui no, l'ho promesso. Sto senso del dovere, Duvalle. Ma immagino che lei avrà cercato di dissuaderlo anche quando faceva botte per la politica, no? Beh, finché stava coi fasci ero contento, perché so fascio pure io. E gli dicevo Mina, sfunnali, spaccagli la testa. Gli ho suggerito io di girare con l'accetta, l'unica volta che mi ha dato retta. Nella milizia angelica siamo tutti perduce, vivo o morto. Ma quando ai tempi del Vietnam, per stare dietro a sto fratello suo, ha fatto una manifestazione contro gli americani e l'hanno buttato fuori dal MIS e dopo è passata ai rossi, e quando è andato a fare l'operaio perché voleva fare la rivoluzione e è diventato il leader della protesta, lei non può sapere. Se c'avevo il cuore, mi scoppiava. Quando si è messo in testa ad occupare la centrale nucleare con l'altri operai, che mi raccomandavo in ginocchio, Antò, dammi retta, mettiti d'accordo con la proprietà, fa come questi compagni tuoi che si sono ammorbiditi, abbassa la guardia, fa sorridere Ivana, quella povera donna di tua moglie, pensa ai figli, non far fesso, tieni famiglia. E lui mi rispondeva, appunto, tengo famiglia e gli devo dare l'esempio. Sì, l'esempio di rompe i coglioni, mi ha fatto vedere i sorci verdi quando stavamo in casa dello zio Gelindo Iseo. Manco sapeva scrivere e già diceva che era un grande scrittore. S'era fissato con la missione, come la chiamava lui, di raccontare la storia dell'Agropontino. C'era le visioni. Io gli dicevo, lascia perdere. Che te scrivi? Fai un mestiere serio, fatte prete. Che poi fanno a mezzi. Beh, per fortuna che non l'ha dato retta, scusi. Ha scritto Canale Mussolini. Già, Ermolino del Po in camicia nera. Senta, scusi, ma lei è veramente odioso con Pennacchi, lo detesta. No, io sono neutrale. Guarda che però intanto questo romanzo lo hanno definito il Magnificat della grande letteratura e ha pure vinto lo Strega. Ah no, no, no. Come no, non l'ha vinto? No, no, dicevo, no, è lo Strega che ha vinto Pennacchi. A sto premio sputtanato, il custodito mio gli ha ridato il prestigio del grande capolavoro, il poema fondatore. Mussolini ha fatto la bonifica e lui l'ha raccontato. Ma lei è invasato. Zitta, che Pennacchi ha cantato l'Italia come Omero cantava la guerra di Troia, solo che è una storia recente. Se gira a guardà e scopre l'eroe dell'Iliade a casa nostra. Ma lei ne va orgogliosissimo. L'angelo è dialettico, è come una moglie. A volte innamorato, a volte incazzato, prova tutto l'angelo. Se Antonio poco, se pigliava troppo sul serio, gli emenavo io. E invece è lui che se pia per culo notte e giorno. Beh, altro che dialettico, caro Angelo, lei è la picella di Pennacchi, le manca la chitarra. Il custodito mio è l'unico che si è fatto la casa con le mani sue, due piani, l'unico capace di maneggiare la conica. Che è la conica? E che non l'ha letto Mammut, è una macchina che è come una piramide d'acciaio e se sbagli di un millimetro di millimetro te fa fette. Senta, ma Pennacchi non si darà le arie, ma lei se le dà per tutti e due. Ma che arie? Tanti libri, ma anche gli scrive lui. Cosa? Lei sta insinuando che Pennacchi i libri se li fa scrivere da qualcun altro? No, dall'A alla Z. Cioè, Pennacchi avrebbe un ghostwriter. Noi ghostwriter, c'è proprio i ghost, cioè i fantasmi. Canale Mussolini gliel'hanno dettati i morti, eppure Palude. Mentre scrive, loro vanno e vengono, gli entrano all'orecchio destro, ognuno dice la sua. L'ha pure scritto in camerata Neanderthal. Nello studio suo c'era un traffico che pareva la stazione Termini. A moglie non ci credeva, rideva, finché gli ha chiesto, ma ti arrivano sempre da destra? E lui, sì. E lei, allora sono i parenti tuoi, noi i miei, perché i parenti di Ivano erano comunisti. Lui ha scritto, sono solo un bambino che voleva essere amato. Se mi avessero amato, non sarebbe successo sto casino. Forse non avrei fatto i libri, ma preferivo essere amato. Ma è vero, lei che lo conosce? A lui la madre gli ha menato tanto, eppure col mestolo, con le ciabatte, col ferro da stiro. Ne ha prese tante che dopo, quando ha fatto a botte per la politica, gli pareva un paradiso. Almeno ne poteva ridare. Com'era da piccolo? Tutto una tigna, come adesso. C'aveva sta mania di conquistare la madre, di non essere visto solo come una disgrazia. Capirà, quella ce n'aveva 7, ma lui faceva per 10 e si era proprio intignato che lei gli doveva voler bene. Ma non c'era trippa per gatti. Lei era tutta per fratello, Gianni, che ci sapeva fare, non come Antonio, che c'ha sto vizio di dire le cose in faccia, che non sta bene. Gianni e lui erano rivali in tutto. Semenavano sempre ai giardini, con la gente che strillava «Corete! Si rimenano i Pennacchi!» Ma se volevano bene. Solo che dice Antonio, io gli volevo bene come a un fratello, lui come a venerdì. Io era venerdì e lui era Robinson. Beh, certo capisco che non deve essere stato facile per lei avere a che fare col fascio comunista. Beh, fascisti, comunisti, a parte che a Latina con queste due cose abbiamo sempre fatto un po' di confusione col fatto delle terre elevate ai ricchi per darle ai poveri. Se Pennacchi fosse stato solo fascio comunista non sarebbe niente. Invece lui può essere tutto, marxista e magico, Don Camillo e Peppone, ebreo e cristiano, violento e non violento, vuole incarnare tutti gli opposti, pure ferocio può essere, vedi Palude. Pensi che il lupetto e il cane suo c'ha un occhio nero e uno celeste. A casa del fascio comunista pure il cane porta due colori. Ma non c'è nemmeno una cosa indiscutibile in casa Pennacchi? Sì, una certezza c'è sta, una sola. Forza Roma! Eppure un'altra, che a Latina lo fanno incazzare. Fanno gli eventi letterari apposta per non invitare a Pennacchi. Ma lui gli dice, ah no, io a Latina la mollo e mando a fanculo a tutti. E guai se s'azzardano a intitolarmi una biblioteca, una strada. Non voglio manco un vicolo a nome mio, capito? Ma è serio lui in questa cosa? Povero Antonio. Può baccagliare quanto gli pare. Tanto il monumento a Pennacchi a Latina ci sta già. E il monumento Accio Piccolino, che è quello del fascio comunista, come si è sempre visto lui, l'escluso, l'incompreso. Nel giardino del Palazzo M sta per Mussolini, c'è sta una statua di madre gigantesca, che ci addossa una caterva dei figli a grappoli, e a tutti gli trova un posticino, meno che a uno, un bambino con la camiciola che si è sollevata, e gli scopre il culetto. Ma lui s'arrampica fra tutti quanti l'altri, come se dovesse rientrare dentro del nido. S'arrampica, però lei non si accorge. Quello è Pennacchi. A lei dispiace che il successo gli sia arrivato a 60 anni dopo una vita così travagliata? Lui è come il diesel, esce fuori a distanza. Ha vinto, ha perso, ma non si è mai arreso. Com'era in fabbrica? Come i tre moschettieri. Tutti per uno, uno per tutti. Per i compagni dava la pelle. Generoso. Ma se te fa un piacere pare che dopo si vergogna. Se lo ringrazi un altro po' si incazza. C'è una delicatezza de core, Antonio mio. Insomma, lei è pazzo del suo assistito. Beh, sa, più che come mogli noi siamo come mamme. E la mamma, ogni scarafone è bella mamma sua, no? Senta, mi piacerebbe, la ringrazio molto e vorrei intervistare, se possibile, anche l'angelo custode della signora Pennacchi. Me lo può presentare? Non c'è bisogno, lo conosce già, so io. Cioè, lei vorrebbe dire che ne custodisce due? Stanno a fare i tagli pure in paradiso. Ah, allora mi dica, essere la moglie di Pennacchi è più difficile che essere Pennacchi? Mo per di chi è Ivana? Quando lavorava in fabbrica, durante uno sciopero, stava di picchetto con le compagne per non far passare il camion. Quello invece parte. E lei, per non dar la vinta al padrone, si è fatta tirare sotto al camion. E allora Antonio ha detto, questa è la donna della vita mia. Eppure lei ha detto, questo è l'uomo della vita mia? A lei sto bullo rivoluzionario gli piaceva assai, però non lo voleva perché aveva capito che erne sera. Gli ha pure menato con lo zoccolo per levarselo dai piedi, ma lui non si arrendeva. Gli ha sempre tenuto testa. Lui la violenza, lei la forza. Lui ha paura che lei gli scappa. Nei libri suoi c'è sta sempre qualche moglie che si squaglia. Lei lo minaccia che se ne va, ma senza di lui si ammazza di noia. A casa loro appena arrivi c'è il noce, con sti rami che piano tutto, e quello è Antonio. Poi c'è sta il melograno, coi frutti rossi pieni dei chicchi, che è Ivana. Con lui tribola, ma si diverte, come me. La casa l'hanno fatta insieme per 10 anni. Lei sempre con le mani piegate, perché la carce, sa, bagna la pelle. E quando lui era in cassa integrazione e si era iscritto all'università, Ivana? Non ha fatto una piega, ma andava avanti tutto e non rinfacciava niente. Pensi un po', a ritrovarsi un marito studente che è tornato ragazzo, con tutte le libertà del caso, altro che camion. Finché lei tirava sui figli perché lui stava in guerra, pazienza. Ma quando è tornato sui banchi e si è ripreso una parte gioventù, lei, che deve continuare a fare l'adulta, la paga cara una festa dove non è stata invitata. Ivana è una che va bene. Ma che fa, si commuove? Perché? Lei non si commuove per queste cose qua? Gente della Latina, io lo so perché è venuto fuori un Pennacchi. Tutta colpa del laghetto. Te fermi su un ponticello e c'è sta un tratto di canale tutto liscio, verde, verde, con gli alberi che si specchiano. Dice, e beh, è il posto della promessa, dell'attesa. Là c'è sta anche il Barry Finn, Joe l'indiano, c'è sta Moby Dick, l'isola del tesoro. Il laghetto è il sogno della letteratura. Un ragazzo parte su ste barche invisibili e prima o poi gli parte la brocca e si mette a scrivere. La guardiana del faro. Allora, Antonio Pennacchi, nello sdoppiamento cronico della sua identità, naturalmente ha anche due angeli custodi, quello religioso e quello laico. E adesso sentiamo quello laico, Simone Morandi, il suo agente letterario, che è uno stratega che legge negli astri ed è più veloce di un neutrino a prevenire l'avversario. Insieme, quando li vedi, hanno qualcosa di picaresco, cioè questo gigante baffuto, questo ragazzino, e hanno un rapporto da compagni d'arme. E ogni tanto fra loro sorprendi uno sguardo d'intesa, come la memoria di un colpo riuscito. Simone, sei in linea? Ciao Barbara, buongiorno. Ciao, ci racconti un po' qualcosa, quello che sai, tutto quello che sai di lui. Certo. Allora, intanto la cosa che mi diverte di più rispetto ad Antonio è il fatto di riuscire a sbalordirlo, e su questo è come un bambino. Ti ricordo, per esempio, la prima volta che sono andato a conoscerlo, per me è stato come un provino. Lui mi guarda un po' scettico e mi fa, e tu a che mi dovresti servire? Io me lo ritrovo davanti come un orco e immediatamente rispondo, fondamentalmente a niente, perché lo strega lo ha già vinto e sul Nobel posso fare ben poco. Però dopo questo primo momento il primo incontro è andato molto bene, lui è passato subito a Morat, poi a Simon, quindi il cognome è accentato, che vuol dire che già hai fatto un passo nella sua direzione, e poi più o meno contemporaneamente ti dice pure dammi del tu, mi ha chiesto una serie di cose che a me non era mai capitato di sentirmi chiedere, ma ho capito che per lui erano importanti, tipo quanti anni hai, stai bene in salute, quante lingue parli, e per cui ho capito che stava guardando in lontano, c'hai tutti i denti, ti sta simpatico mio figlio con il quale dovrai lavorare, insomma ho capito che erano cose che lo facevano guardare lontano. E poi sempre questo fatto di guardare molto lontano, un'altra cosa che mi ha detto la prima volta che ci siamo visti, e rispetto ai contratti mi fa, sia ben chiara una cosa, quando farai i contratti soprattutto sul cinema io voglio che tutte le generazioni di pennacchietti a venire possano godere delle royalties, quindi dice anche nel 2200 quando su un'astronave staranno proiettando il film dei canali Mussolini io voglio che il dindarolo dei miei pronipoti faccia din, ricorda De Morà, ma non solo quello dei figli di mia figlia ma per tutte le generazioni di pennacchietti a venire, e là che faceva il dindarolo deve fare din. E un'altra cosa che mi ha veramente colpito di lui è la sua spontaneità e la sua sincerità, perché una volta eravamo alla Fiera del Libro di Torino e c'era questo finto scrittore che si chiamava Madalon che aveva organizzato una beffa tra gli scrittori, quindi lui girava in mezzo a parecchi autori e li ringraziava per aver letto il suo primo libro e averglielo commentato, ma il libro non esisteva, quindi è andato da tutta una serie di autori, da Sgarbi, dalla Dandini, da De Cataldo, da Faletti, tutti facevano finta di averlo letto, glielo commentavano, gli davano addirittura dei suggerimenti, dicevano che si vedeva l'ansia dell'opera prima. E io mi ricordo quando si è avvicinato a Pennacchi, e Pennacchi, che poi non è stato montato nel servizio, gli ha detto che hanno fatto un servizio sputtanante. Il servizio era sputtanante perché chiaramente tutti questi autori facevano finta di ricordare chi fosse lui, di ricordare questo suo libro fantomatico che si chiamava Implosioni, e glielo commentavano, il libro non esisteva. E Pennacchi l'ha guardato un po' e poi fa, tu chi dovresti essere? Io non t'ho mai sentito, Implosioni, ma che è? Chiaramente non c'è cascato, perché a uno così sincero non lo freghi, insomma. Ehi, che bel tipo sei, che romanzante meraviglia. Ah, che bel tipo sei, amata mia, amata mia. Ta-ta-ra-tum, ta-ta-ra-tum. Qualcuno ti ama e sa parlartene. Ta-ta-ra-tum, ta-ta-ra-tum. Qualcuno ti ama e sa descriversi. Capitaneria di Porto. Per finire è in linea da Latina Massimo Rosolini, uno dei grandi amici e consiglieri letterari di Antonio Pennacchi, coi quali si accapiglia al bar poeta discutendo sulle sue pagine. Massimo, buongiorno. Buongiorno Barbara, ciao. Che cosa mi vuoi dire? Bisogna ringraziarlo, noi abitiamo qui nella città che lui in qualche modo ha cercato di raccontare e cioè, ha iniziato anche di trasformare in un'altra cosa. Beh, noi siamo grati a lui perché lui ha fatto un grande sforzo per dare a questo posto, che insomma non ha un grande passato come tutti sanno, insomma, e quindi anche una identità un po' misera in un certo senso, o perlomeno fa tanta fatica a trovarne una, lui ha fatto un grande sforzo per dargliene una, per raccontargli un passato fatto di storie, di personaggi, eccetera. E lui dice di essere il secondo fondatore della città, adesso è un po' esagerato. Beh certo, Mussolini ha fatto la bonifica e Pennacchi l'ha raccontata. È un romanziere, diciamo così, popolare, che mischia in fondo due cose che popolari sono, cioè la commedia da una parte e il mito dall'altra. Insomma, lui ce l'ha messa tutta per creare un alone di esistenza, ecco, diciamo, ad un luogo che in fondo è così strano, insomma, è la città più strana d'Italia, perché in un paese dove le città hanno millenni, questa c'ha 70 anni, insomma, quindi puoi immaginare come ci viviamo. Antonio è uno che sta nel tempo, nella storia, nelle cose di oggi, insomma, lui crede di essere molto un uomo attuale e invece è secondo me un uomo inattuale, cioè è un uomo di sempre. Ecco, c'è qualcosa in lui, nonostante lui sia molto sulle cose, sul presente, sull'oggi, eccetera, pensa solo all'impegno politico, alla fabbrica, queste cose che lui continuamente ricorda. Però poi invece è una persona antica, non so come dire. E poi guarda, c'è anche un'altra cosa, insomma, che lui è una persona buona, adesso sembra strano dirlo. Lui mi ha fatto leggere giorni fa una cosa che ha scritto per una rivista, che è una lettera d'amore alla figlia. perché lui lì deve scrivere una lettera d'amore alla figlia, poi invece dice: no, io alla figlia non ci scrivo perché mia figlia è permalosa, insomma mi scherza, no? E dice: io scrivo invece alle mie nipotine, e dice: nipoti mie amate, e poi spiega: amate non nel senso amate da me, ma è proprio come un'esortazione, cioè amate, esorta queste bambine piccole a vivere amando. E insomma, e alla fine fa un discorso sull'amore assolutamente imprevisto, dove dice: bisogna amare tutti, anche chi non ti ama, eccetera, che in uno battagliero come lui non te l'aspetti. Poi finisce il pezzo dicendo: beh, ho fatto leggere questo pezzo a mia moglie e mia figlia, no, e praticamente non mi ci hanno riconosciuto. Dice: ma com'è possibile che tu sei così? Quindi ecco, l'ultima battuta su Antonio è questa, cioè che Antonio è così, cioè uno che dietro la battaglia, diciamo, della storia, della politica, eccetera, però come fatto nobile, insomma, eccetera, però poi ecco, è un uomo buono. Sembra poco, No, sembra moltissimo. Poco, e invece è tantissimo. E io credo che... Sembra moltissimo, Dostoevskij ci ha dovuto scrivere l'idiota per andare a guardare, per andare a cercarsi un uomo buono. L'ultima scena di Paluda che non vi posso dire, ma io ve la dico, e sono lui con la moglie e l'amante in un circuito di perfetto amore, incarna il grande sogno pennacchiano. Il sogno della conciliazione. È per questo che lavora lui, per trovare un punto di equilibrio nella follia umana, in politica, nella vita, nell'amore. Ma sa che è impossibile. Ed è questa impossibilità che lo macera, lo scuote, lo insegue e lo castiga nel corpo. È quello, l'angelo che lo percuote con gli infarti e la resezione gastrica. Si è tentati di vedere in questo libro Maestro e Margherita di Bulgakov e Macondo e Spur River, ma anche Ovidio e Gogol. Ma Borges ci avverte: ogni grande scrittore crea i suoi predecessori. C'è una stretta parentela tra la prima elegia dunese di Rilke e Palude. Voci, voci. Ecco, fruscia qualcosa da quei giovani morti e viene a me. Che vogliono? Che io debba rimuovere lieve quella parvenza d'ingiusto che turba un po', talvolta, il moto puro dei loro spiriti. Ma i vivi sbagliano tutti. Che troppo netto distinguono. Si dice che gli angeli spesso non sanno se vanno fra i vivi o fra i morti. Gloria Guerrera ed io ringraziamo Marco Fabio Polloni per aver prestato la sua voce all'angelo custode di Pennacchi. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.